purtroppo, il consumo di suolo ha degli effetti enormi sia sul cambiamento climatico sia sull'adattamento agli effetti del cambiamento climatico. Prima di tutto il suolo è un serbatoio di carbonio ed è una delle poche situazioni nella quali a livello naturale riusciamo a ricatturare l'anidride carbonica emessa, perché sul suolo vivono i vegetali e le piante sottraggono gratuitamente per noi CO2 dell'atmosfera e la stoccano nel legno e anche nelle radici e anche nella sostanza organica del sottosuolo. Quindi quando noi cementifichiamo un suolo, intanto abbiamo già perso un serbatoio di carbonio naturale e la possibilità di stoccarne altro in futuro. Poi abbiamo i servizi relativi all'acqua. Un suolo filtra l'acqua verso la falda, che poi è il nostro serbatoio per l'acqua da bere o l'acqua per l'agricoltura. E nei confronti delle alluvioni del futuro, che sono attese diventare più frequenti a causa dell'aumento dell'intensità delle precipitazioni, un suolo naturale o agricolo assorbe l'acqua, mentre un suolo impermeabilizzato da asfalto e cemento la fa correre più in fretta e aumenta la vulnerabilità dei territori circostanti, aumentando il rischio di allagamenti e di alluvioni. Quindi il suolo ha una quantità enorme di funzioni che chiamiamo servizi ecosistemici. Un suolo vegetato durante l'estate abbassa la temperatura di 2-3 gradi, quindi nelle nostre città o nelle zone circostanti diminuisce le ondate di calore, mentre un suolo cementificato le aumenta, le famose isole di calore urbano, dove quindi ci sono 2-5 gradi in più proprio a causa della natura dei materiali che durante una giornata assolata estiva catturano più calore rispetto a una zona vegetata dove invece c'è umidità che evaporando abbassa la temperatura. E poi aggiungiamo che il suolo serve prima di tutto per coltivare il nostro cibo, quindi quando cementifichiamo perdiamo una funzione strategica per il futuro nostro e delle future generazioni e rappresenta anche una importante oasi di biodiversità, perché in tutta questa vita di piante, animali, insetti, anche dentro il suolo c'è una quantità enorme di vita che sarebbe completamente estinta nel momento in cui noi facciamo un edificio e asportiamo l'orizzonte superficiale del suolo. E infine ci mettiamo anche l'aspetto paesaggistico, turistico. È chiaro che l'Italia ha una grande carta da giocare, lo sappiamo, sul turismo, persone che vengono da tutto il mondo per ammirare il nostro paesaggio. Se ci costruiamo capannoni, sinceramente diventiamo sempre meno attrattivi. Ecco, forse possiamo dire, proprio perché lei ha parlato di servizi ecosistemici e di biodiversità, si può dire che manchi un po' di cultura scientifica in questo senso, ovvero vediamo tante amministrazioni comunali, cittadine, che magari spingono tanto sulla piantumazione di nuovi alberi, di viali alberati, ma non hanno una concezione più ampia di quello che può essere un'area verde che è fatta sia di suolo che di alberi e di specie vegetali e animali che contribuiscono alla biodiversità e ai servizi ecosistemici. Cioè, si parla tanto di alberi, ma quasi come se fossero slegati alla loro provenienza, cioè il suolo, il terreno. Certo, in Italia abbiamo un grosso problema di mancanza di cultura scientifica sui problemi ambientali, quindi certamente questo provoca una sottovalutazione dell'importanza di questi servizi. E poi aggiungiamo che c'è un'economia che spinge per utilizzare il suolo soltanto come un elemento di valorizzazione monetaria, quindi costruire per fare attività economiche, per creare posti di lavoro che poi magari si rivelano precari e di durata molto limitata, tutte cose che si possono fare lo stesso usando però i territori già compromessi. Piuttosto si deve demolire e rifare in zone dove abbiamo già delle aree industriali vecchie che sono andate in disuso, caserme abbandonate, distretti industriali invecchiati, ma non dobbiamo consumare nuovo suolo, perché tra l'altro andiamo di solito a cementificare quello migliore, perché il suolo pianeggiante delle nostre pianure è anche il suolo di migliore qualità al mondo, quello produttivo da un punto di vista agricolo, non è una pietraia sterile. Quindi rispettare quel poco suolo che ormai ci resta è fondamentale, perché una volta perso è perso per sempre. Ecco, allora diciamo pure anche che l'obiettivo consumo di suolo zero al momento è abbastanza lontano, proprio perché che, come diceva lei, è molto trascurato come tema, ma qualora in un futuro, come dire, anche abbastanza utopico, si cominciasse anche a decementificare e quindi a riportare all'aria e alla luce il suolo, cioè quanto ci mette un suolo che è stato cementificato per decenni, per secoli, a riottenere le proprie qualità naturali? Ci mette millenni, addirittura decine di migliaia di anni, quindi un suolo ha un processo di formazione estremamente lento e dipendente dalla geologia, dal clima, dalla geomorfologia, dall'azione dei fiumi. Quindi attenzione, perché il suolo è anche frutto di processi antichi che non è detto che si rigenerino più oggi. Quindi una volta perso, formare un suolo del futuro è un processo al di là dell'età delle nostre generazioni, insomma. Non lo vedranno certo i nostri figli e nipoti. E poi è assolutamente illusorio pensare di decementificare tutto quello che abbiamo fatto. Avrebbe dei costi stratosferici, dovremmo trovare il luogo per mettere le macerie e non abbiamo più il suolo della zona dove è stato asportato per costruire. Quindi ci rimarrebbero dei buchi in sostanza più che dei suoli. Inoltre aggiungiamo che questo processo si potrebbe fare soltanto in piccolissime situazioni molto locali di grande pregio, per esempio là dove sono state costruite delle zone di edifici industriali moderni, magari di fianco a dei monumenti di pregio o delle aree naturalistiche particolarmente riconosciute. Allora si può fare un piccolo intervento puntiforme che giustifica una grande spesa e un lungo programma di bonifica, ma non può certo essere un programma estensivo, è assolutamente impensabile.